Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre la mail unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. E poi vi ricordo che è possibile scaricare tutte le puntate dal sito di Radio 24. Alcuni giorni fa sul Sole 24 Ore, nelle pagine di Normi e Tributi, è comparso un articolo scritto dal collega Antonio Criscione che dice quanto segue nella titolazione, lo sintetizzo con il titolo: sul bollo auto a rischio 50.000 condoni. Il caso parte dall'Abruzzo. Io lo spiego in soldoni e poi lo approfondiremo. Come ricorderete, c'è stata anni fa, 6 anni fa se non ricordo male, una sanatoria sui bolli auto non pagati. Quindi, teoricamente, chi dal 1993 al 1996, per quegli anni d'imposta, non ha pagato il bollo auto, ha potuto sanare questa situazione. Quindi, chi lo ha fatto riteneva e ritiene di essere tranquillo e a posto, con la pace, con la coscienza e con il fisco, anche se per vari motivi per quegli anni non ha pagato. Ebbene, cosa accade? Accade che un'associazione a difesa dei diritti dei cittadini, Codice, un'associazione nazionale, scopre che invece in Abruzzo sono arrivate 50.000 richieste ai contribuenti di pagamento per quei bolli auto non pagati. Capite che la cosa è abbastanza strana, perché se costoro riescono a dimostrare di aver pagato, è strano che poi, pagato intendo dire la sanatoria, qualcuno gli chieda di versare il non allora versato per il bollo auto. Per capire di più di questa storia, che secondo me riserverà diverse sorprese, noi abbiamo chiamato a interloquire con noi Domenico Pettinari, che è responsabile dello sportello interterritoriale dell'Associazione Codici in Abruzzo. Buongiorno Pettinari. Buongiorno, buongiorno. Allora, io avevo chiamato anche a parlare con noi Equitalia e l'Agenzia delle Entrate, e specificamente la sua, come dire, diramazione abruzzese. Allora, Equitalia ha declinato un invito dicendo che sostanzialmente loro fanno soltanto da riscossori e quindi non c'entrano. Bah, sarà vero, non sarà vero. Comunque, insomma, secondo me parlare con i cittadini è sempre un bene, però hanno rifiutato. Ho chiamato l'Agenzia delle Entrate, prima entusiasmo alle stelle, quasi un tripudio popolare di acclamazione per il dirigente che sarebbe dovuto intervenire, poi da Roma improvvisamente è arrivato un input, dice no, è meglio che non parliamo, lascia agli ascoltatori decidere se è stata la scelta migliore o meno, voi sapete come la penso. Allora, Pettinari, 50.000 richieste, ma come l'avete scoperto? Noi abbiamo scoperto questo dato catastrofico, a mio avviso, dalle attività di sportello. Noi siamo un'associazione presente da diversi anni sul territorio, con diramazioni appunto periferiche, con tantissimi sportelli, e quindi i primi cittadini arrivavano presso il nostro sportello e ci dicevano: guarda, io nel 2003 ho aderito a un condono essendo stato invitato dall'allora Socet, che è l'ente di riscossione, ho pagato il 25% del mio debito con lo Stato ed oggi non riesco a capire perché, a distanza di 6 anni, l'Agenzia delle Entrate e l'Equitalia mi chiedono di completare il pagamento con il restante 75% unito a interessi di mora maturati che sono pari al 100% dell'intero importo. Facciamo un esempio: se il cittadino aveva un debito di 100 euro, pagò 25 euro come previsto appunto da questa lettera di invito, oggi gli chiedono il restante 75 euro unito a ulteriori 100 euro di interessi. Beh, questo intanto va a configurare una prima violazione normativa, in quanto la legge 212 del 2000 dice che quando un cittadino si è conformato a un atto dell'amministrazione e l'amministrazione poi modifica o annulla quell'atto a distanza di anni, al cittadino non sono addebitati nessun interessi di molti. Certamente. E quindi la prima violazione normativa perché applicano gli interessi. Beh, poi noi contestiamo anche il restante 75% perché è frutto di una falsa interpretazione della normativa, di un inganno nei confronti dei contribuenti che si sono diciamo conformati a quello che era l'invito dell'amministrazione. Ecco, Pettinari, io la fermo un secondo perché leggo sempre da questo articolo che l'Agenzia delle Entrate avrebbe spiegato, uso il condizionale perché avrebbero potuto dirlo per esempio anche qui a Radio 24, no, invece hanno deciso di non dirlo, avrebbe spiegato che l'errore è stato commesso dall'allora gestore, quindi insomma è un errore dell'epoca, ma è un errore che non è stato sanato però, perché se arriva la cartella, arriva l'avviso di pagamento al contribuente abruzzese, vuol dire che quell'errore non se n'è accorto nessuno. Ma com'è possibile questa cosa? Intanto non è solo da imputare all'allora agente della riscossione dei tributi questo errore, perché la legge prevedeva espressamente che l'Agenzia delle Entrate doveva approvare quell'invito dell'allora gestore. Quindi il gestore, prima di inviare a Casa dei Cittadini la lettera con cui comunicavano il condono, questa lettera è passata tramite il vaglio dell'Agenzia delle Entrate perché era prevista una normativa. Quindi posto questo, e dell'errore poi l'Agenzia delle Entrate non si è accorta per 6 anni, per 7 anni, e si accorge oggi chiedendo anche degli interessi. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Abbiamo dei dati allarmanti che oltre a 50.000 casi in aspetti, la fermo un secondo perché vengo a quello che lei sta per dire. Allora, detto che gli abruzzesi sono nel cuore degli italiani e detto che gli abruzzesi sono nostri fedeli radioascoltatori, uno potrebbe dalle Alpi alla Sicilia chiedersi: mai visto mai che se è successo in Abruzzo questo potrebbe accadere anche nelle altre regioni italiane? E allora le chiedo Pettinari, ma non sarà che questo fatto accaduto in Abruzzo si sta replicando, si è replicato anche nel resto d'Italia? Questa è una verità, si sta replicando nel resto d'Italia. L'Equitalia SPA, che opera su tutto il territorio nazionale, in questi giorni sta inviando qualcosa come circa 1 milione di queste lettere ai contribuenti italiani, quindi in tutta Italia arriveranno, sono già arrivate migliaia e migliaia di lettere, arriveranno, ma la cosa ancora più grave è che se il cittadino non pagherà entro 20 giorni, questi gli pongono la cosiddetta ganascia fiscale, cioè il fermo amministrativo sulla propria autovettura, quindi il cittadino dopo dovrà anche pagare i costi per la revoca e la cancellazione del fermo, è un danno pazzesco. Ma noi abbiamo comunque segnalato questa vicenda, abbiamo preso contatti sia con i vertici regionali che nazionali, ma la cosa strana che ne è venuta fuori, ecco, cosa vi hanno risposto? È questo rimbalzo di responsabilità tra l'Equitalia SPA e l'Agenzia delle Entrate. L'Equitalia dice: noi non possiamo fare nulla fino a quando non verrà un provvedimento ufficiale da parte della Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate che ci dice: potete annullare questa cartella. L'Agenzia delle Entrate ci dice: no, guardi che l'Equitalia da sola potrebbe annullare gli interessi. Beh, noi abbiamo scoperto una cosa molto carina, che questo rimbalzo di responsabilità non regge per niente, perché il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, che è il dottor Attilio Befera, è contemporaneamente anche presidente del consiglio d'amministrazione di Equitalia SPA. Esattamente. Al vertice, certo, di Equitalia, al vertice dell'Agenzia delle Entrate. Diciamo di più, l'Equitalia è partecipata al 51% dell'Agenzia delle Entrate, quindi diciamo che sono quasi la stessa cosa e non ci può essere più questo rimbalzo di responsabilità. Ma la cosa ancora più strana, è che mi si consenta, è che siamo stati l'unica associazione a parlare di questo problema. Ecco, ma arriviamo anche a questo punto. Allora, detto che sarebbe stato straordinario, bellissimo, un gesto quasi di amore nei confronti dei cittadini, se Equitalia e l'Agenzia delle Entrate avessero avuto il piacere e la compiacenza di partecipare, ecco, ma non esiste un tavolo tecnico al Ministero dell'Economia e delle Finanze dove queste cose dovrebbero essere affrontate, pianificate, insomma, trovate delle soluzioni anche amichevoli? Tavolo. Noi partecipiamo e abbiamo il Consiglio Nazionale degli Utenti e dei Consumatori, dove ci sono delle sottocommissioni che incontrano anche i vertici di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate, e mi sembra molto strano che di questa vicenda ne stiamo parlando solo noi come associazioni consumatori codici, e il grido d'allarme non è stato lanciato da nessuno in Italia e quindi è una cosa abbastanza particolare. Noi non partecipiamo in quella commissione ministeriale dove si discute con Equitalia, partecipano altre organizzazioni, altre associazioni. Mi pare di aver sentito che si sono seduti tempo fa al tavolo per discutere di questa vicenda, però il problema non è stato risolto. A quanto pare proprio no, perché se il risultato è questo, che stanno piovendo cartelle. Allora io dico ai radioascoltatori, un abuso al giorno @radio24.it, se avete ricevuto fuori dalla regione Abruzzo o riceverete degli avvisi di pagamento per bolli auto per il periodo 93-96, mi raccomando scriveteci, perché così almeno riaffronteremo il caso, e se ovviamente voi avete pagato la vostra quota parte di condono, vale a dire il 25% delle imposte che avreste dovuto per il periodo 93-96. Quindi scriveteci. Ringrazio Domenico Pettinari dell'associazione Codici per il suo intervento, in regia Peter Bescapè, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.